freestyle, the hits out low, cause you know I hit you with the boom elbow. Un giorno di punto in bianco ho cominciato a scrivere, mi resi conto che per rimare bisognava vivere, liberandole su di un foglio come sfogo. Ho accatastato rime, oggi a picco e rogo, in onore delle penne che hanno versato sangue. Ho risme di fogli che raccontano di questa strage, e le scie d'inghiostro che macchiano le lingue, testimoniano lasciando segni come l'andrage. Che la N è la doppia S nella doppia H, con la doppia firma in calce e la doppia c'era l'H. Sigillo la paternità di questi versi, in cui racconto dei miei rapporti controversi, studiando termini, sinonimi e contrari. Nato originale, il resto lo lascio ai falsari, manipolando loops mi produco strumentali. Dappertutto ci trovi le mie impronte digitali. Il mio nome è Nessa, mette senza scondo, il prezzo giusto è questo, è il momento di saldare il conto. Rima di impatto zero che non salverà nel mondo, compensando le missioni di cazzate, giro giro tondo. Non ho rime da Guinness, ho rime da Ness, senza tanti fronzoli, senza tanti bless. Tu che c'hai tanti consigli, perché non me li mandi? Fino ad allora, questo è il mio modus operandi. Diviso tra nottate passate, sulla tastiera di un computer, altre combattendo Freddy Krueger nella mia testa. Ho rime dormienti, che se risvegliate, diventano rime taglienti. Disegnando scenari apocalittici imminenti, la fine del mondo che si intreccia a momenti commoventi. Che ho nell'animo, nel mio background, è un bagaglio che mi accompagna nell'underground. Come l'identità che ho cucito addosso, è attaccata alla coscienza come la carne all'osso. Che lascia gli avvoltoi su questa carcassa, la carne fresca l'ho spartita con la massa. Affamata come me, neonato appena nato, per nutrirmi mi attacco alla rima e vengo allattato. In quest'opera sono un fantasma e col fantasma all'opera mi ripresento, sono Nessi, il fantasma dell'opera. Il mio nome è Nessa, mette senza scondo, il prezzo giusto è questo, è il momento di saldare il conto. Rima di impatto zero che non salverà nel mondo, compensando le missioni di cazzate, giro giro tondo. Non ho rime da Guinness, ho rime da Ness, senza tanti frontoli, senza tanti bless. Tu che c'hai tanti consigli, perché non me li mandi? Fino ad allora, questo è il mio modus operandi.